essere dimezzato dal vento duro di ser storte. Sono spaventato dagli eventi, dal futuro che potrebbe essere dimezzato dal vento duro di ser storte. A volte capita che ciò che vorremmo si è sotterrato da un avvento giunto che non vorremmo. Punto fermo alle volte da cui scappare. Scappa, scappa via in notti di periferia. Correndo il vento che ti trasporti via, ponte verso, verso, verso noti di periferia. Quindi scappa, scappa via, inseguendo la scia della tua stella che porti alla casa di pensieri a meno irti. Prendi in mano i tuoi futuri storti e quindi cammina, cammina, cammina, poi corri. Cammina, cammina, corri. Sono spaventato dagli eventi e dal futuro che potrebbe essere dimezzato dal vento duro di sere storte. Sono spaventato dagli eventi e dal futuro che potrebbe essere dimezzato dal vento duro di sere storte. Di sere storte. A volte capita che ciò che vorrei il mare che come forbice taglia via il tempo labile che non vorremmo. Punto fermo alle volte da cui scappare. Scappa, scappa, scappa via in notti, in notti, in notti di periferia. Troppe volte si rimane a mani giunte aspettando, io dico correndo il vento che ti trasporti verso, verso, verso notti di periferia. Quindi scappa, scappa via inseguendo la scia della tua stella che porti alla casa di pensieri meno irti. Prendi per mano i tuoi futuri storti e quindi cammina, cammina, cammina, poi corri. Cammina, cammina, cammina, poi corri. Sono spaventato dagli eventi, dal potrebbe essere dimezzato dal vento duro di sera storta.